Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Dubreuil, vedendo aprirsi delle possibilità d'azione, bruciava dal desiderio di sfruttarle. Henri si sentiva meno entusiasta. Certo, dal 39 in qua era venuto cambiando. Un tempo era stato di sinistra perché la borghesia lo disgustava, perché l'ingiustizia lo indignava, perché considerava tutti gli uomini suoi fratelli. Bei sentimenti generosi che non li impegnavano a nulla. Ora invece sapeva che, se voleva davvero sganciarsi dalla propria classe, doveva pagare di persona. Malfilâtre, Bourgoin, Picard ci avevano lasciato la pelle, caduti al limitare del piccolo bosco. Ma Henri pensava ancora a loro come se fossero vivi. E si ricordava di quando, seduti insieme davanti a un ragù di coniglio, bevendo vino bianco, avevano parlato, senza crederci molto, dell'avvenire. Quattro giovani, quattro compagni. Ma a guerra finita sarebbero stati di nuovo un borghese, un contadino, due metallurgici. Henri aveva compreso in quel momento che agli occhi degli altri tre e ai suoi propri, a guerra finita, egli sarebbe apparso un privilegiato più o meno vergognoso, ma consenziente, e che non sarebbe stato più dei loro. Per restare loro compagno non ci sarebbe stato che un mezzo, continuare un'azione con loro. E aveva compreso ancor meglio nel 41, lavorando col gruppo di Boiscolombe. Al principio non era stato facile. Flamand le esasperava ripetendo ogni momento «Mi devi capire, io sono un operaio, ragiono come un operaio». Ma grazie a lui, Henri aveva toccato con mano qualcosa che prima non conosceva e di cui ormai avrebbe sentito sempre la minaccia, l'odio. Quest'odio allora gli era riuscito di disarmarlo. Nell'azione comune, gli altri l'avevano riconosciuto per loro compagno. Ma se un giorno fosse ridiventato un borghese indifferente, l'odio sarebbe rinato, e a buon diritto. A meno che non avesse dato egli stesso la prova del contrario, sarebbe stato un nemico per centinaia di milioni di uomini, un nemico dell'umanità. E non voleva questo a nessun costo. Quella prova l'avrebbe data. Ma ora, disgraziatamente, l'azione aveva cambiato aspetto. La resistenza era una cosa, la politica un'altra. E la politica era ben lontana dall'appassionarlo. Egli sapeva ciò che avrebbe significato un movimento come quello promosso da Dubreuil. Comitati, conferenze, congressi, comizi, parlare e manovrare tutto il tempo, transigere, accettare compromessi zoppicanti, tempo perduto, concessioni fatte con rabbia, tetra noia. Niente di più ripugnante. Dirigere un giornale, ecco il lavoro che amava. Ma l'uno non impediva l'altro e anzi si completavano. Impossibile servirsi dell'espoir come d'un alibi. No, Henri non si sentiva in diritto di sottrarsi. Avrebbe solo cercato di limitare gli oneri. «Dio mio, qualche atto di presenza non posso rifiutarvelo, ma non dovrete chiedermi molto di più». «Vi chiederò sicuramente di più», disse Dubreuil. «E comunque non subito. Ho già un mucchio di lavoro da sbrigare prima di partire». Dubreuil gli piantò gli occhi in viso. «Ci tenete sempre a questo viaggio?» «Più che mai. Parto fra 3 settimane al più tardi». «Ma no», disse Dubreuil irritato. «I viaggi, devo dire che mi sembrano un mito», disse Paul, e aggiunse sorridendo per Anne. «Una rosa che mi porti tu mi dà più dei giardini dell'Alhambra dopo 15 ore di treno». «Oh, un viaggio», disse Dubreuil. «Può essere appassionante, ma in questo momento è molto più appassionante restare qui». «Sarà. Ma io, ecco, ho talmente voglia d'essere altrove che al bisogno me ne andrei anche a piedi, e con le scarpe piene di piselli secchi». «E l'espoir? Lo lascerete così per un mese?» «Luc se la caverà benissimo senza di me». Li guardò tutti e tre con meraviglia. «Ma non si rendono conto? Sempre le stesse facce, lo stesso ambiente, le stesse conversazioni, gli stessi problemi. Più cambia e più è uguale. Alla fine ci si sente morire vivi». L'amicizia, le grandi emozioni storiche, aveva saputo apprezzarle per quello che valevano. Ma ora aveva bisogno di qualcosa d'altro. Un bisogno così violento che sarebbe stato futile volerlo spiegare. Buon Natale! La porta s'era aperta. Vincent, Lambert, Césénac, tutta la redazione del giornale. Portavano dischi e bottiglie, avevano le guance rosse di freddo, cantavano a squarciagola il ritornello delle giornate d'agosto. «Non li rivedremo più! È finito! Son fottuti!» Henri li guardò con un sorriso contento. Si sentiva giovane come loro e nello stesso tempo aveva l'impressione di averli un po' creati. Si mise a cantare con loro. D'un tratto la luce si spense. Il punch fiammeggiava. Le spighe di Natale crepitavano. Lambert e Vincent aspergevano Henri di scintille. Paul accendeva le candeline puerili dell'albero. «Buon Natale!» Arrivavano a coppie, a gruppi. Ascoltavano la chitarra di Django Reinhardt, ballavano, bevevano, ridevano tutti. Henri prese Anne alla vita e Anne disse con voce commossa: «È proprio come alla vigilia dello sbarco, lo stesso posto, le stesse persone». «Sì, e adesso è successo». «Per noi è successo», disse Anne. Henri sapeva ciò che pensava Anne. In quello stesso momento, villaggi belgi bruciavano. Il mare spazzava le campagne d'Olanda. Qui però era una sera di festa. Il primo Natale di pace. Bisogna bene che sia festa qualche volta. Se no, a cosa servirebbero le vittorie? «Sapete», disse, «ho deciso di scrivere un romanzo allegro». «Voi», disse Anne in tono divertito. «E quando cominciate?» «Domani». Sì, aveva fretta all'improvviso di ridiventare ciò che era, ciò che aveva sempre voluto essere, uno scrittore. E già riconosceva quella gioia inquieta. «Comincio un nuovo libro». Avrebbe parlato di tutte queste cose che stavano rinascendo, le albe, le lunghe notti, i viaggi, la gioia. «Sembrate proprio di buon umore stasera», disse Anne. «Infatti, ho l'impressione di uscire da un lungo tunnel. Voi no?» Ella esitò. «Non so, c'è pure stato qualche buon momento in quel tunnel». «Certo», le sorrise. Anne era graziosa questa sera ed egli la trovava romantica nel suo tailleur austero. Se non fosse stata una vecchia amica e la moglie di Dubreuil, le avrebbe fatto volentieri un briciolo di corte. La fece ballare parecchie volte di seguito. Poi invitò Claudie de Belzance, che, in grande coltè, coperta di gioielli di famiglia, era venuta a incanagliarsi con l'élite intellettuale. Invitò Jeannette Cange, Lucie Lenoir. Tutte queste donne le conosceva troppo, ma ci sarebbero state altre feste, altre donne. D'un tratto si fece silenzio. Henri vide con sorpresa che Paul si sedeva al pianoforte. Cominciava a cantare. Era molto tempo che non le accadeva più di cantare. Henri cercò di ascoltarla con orecchio imparziale, ma egli era riuscito di farsi un'idea esatta del valore di quella voce. Certo, non era una voce indifferente. In certi momenti pareva di sentire l'eco di una campana di bronzo che suonasse dietro uno spessore di velluti. Si chiese ancora una volta: perché ha smesso, in realtà? Al principio aveva visto in quel sacrificio una sconvolgente prova d'amore. Più tardi s'era meravigliato che Paul sfuggisse tutte le occasioni di tentare una vera carriera e s'era chiesto se ella non avesse preso a pretesto il loro amore per sottrarsi alla prova. Scoppiarono gli applausi. Egli applaudì con gli altri e Anne mormorò: «La sua voce è sempre così bella. Se cantasse di nuovo in pubblico sono sicura che avrebbe successo». «Credete? Ma è un po' tardi, no?» «E perché? Se riprendesse qualche lezione», disse Anne, e aggiunse un po' incerta: «Mi sembra che sarebbe bene per lei. Voi dovreste incoraggiarla». «Forse». Guardò Paul, che ascoltava sorridendo i complimenti focosi di Claudie de Belzance. Certo, se si fosse rimessa a cantare, la sua vita avrebbe potuto prendere un altro corso. L'ozio non le faceva affatto bene. «E anche per me le cose si semplificherebbero», si disse. «Dopotutto, perché no? Questa sera tutto sembrava possibile. Paul diventerebbe celebre, s'appassionerebbe alla propria carriera ed egli sarebbe libero, se ne andrebbe in giro dappertutto, avrebbe qua e là degli amori allegri e brevi. Perché no?» Thank you. Henri s'avvicinò a Nadine, che in piedi vicino alla stufa masticava gomma con aria tetra. «Perché non ballate?» Ella alzò le spalle. «Con chi?» «Con me, se volete». Nadine non era carina. Rassomigliava troppo a suo padre, ed era imbarazzante ritrovare quel viso burbero su un corpo di adolescente. Gli occhi erano azzurri, come quelli di Anne, ma così freddi che sembravano logori e puerili a un tempo. Tuttavia, sotto il vestito di lanetta, la vita era più morbida, i seni più fermi di quel che Henri avesse pensato. «È la prima volta che balliamo insieme», le disse. «Sì», rispose, e aggiunse, «ballate bene». «Vi pare strano?» «Certo, nessuno di questi mocciosi sa ballare». «Non hanno avuto occasione di imparare». «Lo so», disse Nadine, «non si è avuto occasione di niente». «Voi non ballate male», disse Henri educatamente. «Come una mucca, ma me ne infischio. Ballare non mi piace». Lo guardò sospettosa. «I piccoli zazù, il jazz, le cave che puzzano di tabacco e di sudore, vi divertono?» «Di tanto in tanto. E voi? Cosa vi diverte?» «Niente». La risposta era stata così rabbiosa che Henri la guardò incuriosito. Si chiese se erano stati il disinganno o il piacere a gettarla in tante braccia. Il piacere, forse, addolciva la dura ossatura di quel viso. La testa di Dubreuil su un cuscino, a cosa avrebbe rassomigliato? «Quando penso che ve ne andate in Portogallo», disse Nadine con rancore, «ne avete della fortuna». «Bisogna bene che per i vecchi ci sia qualche compenso», disse Henri allegro. «E per quando si è giovani?» disse Nadine. Sospirò rumorosamente. «Se almeno succedesse qualche cosa». «Che cosa?» «Ci ripetono da anni che siamo in rivoluzione, poi invece non succede niente, niente si muove». «In agosto però qualcosa si è mosso», disse Henri. «In agosto dicevano che tutto sarebbe cambiato e tutto è rimasto come prima. Sono sempre quelli che lavorano di più a mangiare di meno e tutti continuano a trovare la cosa soddisfacente». «Nessuno qui la trova soddisfacente». «Ma tutti ci si adattano», disse Nadine irritata. «Dover perdere il proprio tempo a lavorare è già abbastanza straziante. Se poi non deve servire nemmeno a togliersi la fame, io preferirei fare il gangster». «Sono d'accordo», disse Henri. «Siamo tutti d'accordo. Ma voi avete troppa fretta. Non volete aspettare». Nadine l'interruppe. «Eh sì, credete che non me l'abbiano già spiegato in lungo e in largo a casa che bisogna aspettare? Ma delle spiegazioni, vedete, non so che farmene». Chinò la testa e stette un poco a ruminare in silenzio. Poi alzò bruscamente gli occhi. «Portate anche a me». «Dove?» disse Henri. «In Portogallo». Henri sorrise. «Se potessi portare qualcuno, porterei Paul. I viaggi non le piacciono, ma sarebbe contenta di accompagnarmi. Sono 10 anni che vi vede tutti i giorni e ne ancora per un pezzo, no? Un mese di più o di meno, cosa volete che le faccia?» Di nuovo Henri sorrise. «Al ritorno vi porterò delle arance». Il viso di Nadine si fece duro e Henri ebbe dinanzi la maschera autoritaria di Dubreuil. «Dovreste sapere che non ho più 8 anni». «Lo so». «No, per voi sarò sempre la sporca ragazzina che tirava calci contro il camino». «Niente affatto. Prova ne sia che voi invitate a ballare. Oh, è una serata di famiglia, ma non mi invitereste a uscire con voi». Henri la guardò con simpatia. Eccone una, almeno, a cui sarebbe piaciuto di cambiare aria. A cui sarebbero piaciute tante cose. Altre cose. «Invece vi sbagliate», disse. «Vi invito». «Davvero?» Gli occhi di Nadine brillavano. Col viso animato diventava molto più carina. «Il sabato sera non vado al giornale. Troviamoci alle 8 al Bar Rouge». «E che cosa faremo?» «Deciderete voi». «Io non ho idea». «Di qui a sabato ne avrò una io. Venite a bere un bicchiere». S'avvicinarono al buffet dove Lenoir e Julien stavano litigando. Era una cosa cronica. Ciascuno rimproverava l'altro di aver tradito la propria giovinezza in un modo che non era il modo giusto. In passato, trovando troppo misurata la stravaganza del surrealismo, avevano fondato insieme il movimento paraumano. Ora Lenoir era diventato professore di sanscrito e scriveva poesie ermetiche. Julien era bibliotecario e aveva smesso di scrivere, forse temendo una maturità mediocre dopo i suoi successi precoci. «Tu che ne pensi?» chiese Lenoir. «Bisogna prendere delle misure contro gli scrittori collaborazionisti, no?» «Questa sera», scherzò Henri, «non penso». Thank you. mano imperiosa si posò sulla spalla di Henri. Scria sin. Guarda cosa ho portato. Whisky americano. Questo primo veglione parigino è una buona occasione per berlo. Magnifico, disse Henri. Riempì un bicchiere. Chi vuole un cicchetto di vero whisky? Chiese. S'avvicinò Luc, trascinando i suoi grandi piedi gottosi. Lambert e Vincent lo seguivano. Riempirono i propri bicchieri. Scriassin si volse a Henri. Ho avuto una conversazione seria con Dubreuil. Sono molto inquieto. E perché? Chiese distrattamente Henri. Questo movimento che Dubreuil sta montando, disse Scriassin scuro in faccia, credevo che avesse per scopo fondamentale distaccare il proletariato dal Partito Comunista. Pare invece che Dubreuil non ci pensi affatto. No, proprio niente affatto, disse Henri, e pensò avvilito. Ecco il genere di conversazioni che dovrò sorbirmi tutta la giornata quando mi sarò lasciato imbarcare da Dubreuil. Una voglia divorante d'essere altrove lo invase di nuovo. Scriassin lo guardò negli occhi. Tu ti metti al passo con lui? A passi molto piccoli, disse Henri. La politica, lo sai, non è il mio forte. Probabilmente, disse Scriassin con uno sguardo di rimprovero, tu non hai capito ciò che sta brigando Dubreuil. Vuole mettere insieme una sinistra indipendente, ma che accetti l'unità d'azione con i comunisti. Sì, lo so. E con questo? E con questo? Ma fai il loro gioco. C'è un mucchio di gente che si accosterà ai comunisti attraverso Dubreuil, ma che senza di lui ne sarebbe spaventata. Non dirmi che sei contro l'unità d'azione, disse Henri. Staremmo freschi se la sinistra cominciasse a dividersi. Una sinistra asservita ai comunisti è una mistificazione, disse Scriassin. Se siete decisi a mettervi con loro, iscrivetevi al partito, sarà più onesto. Nemmeno per idea, ci sono molti punti su cui non siamo d'accordo. Scriassin alzò le spalle. Allora, di qui a 3 mesi gli staliniani vi denunceranno come social traditori. Vedremo, disse Henri. Tu hai in mano il solo giornale non comunista che tocchi il proletariato. Se metterai l'Espoir al servizio di Dubreuil, ti farai complice di una manovra disgustosa. No, anche se Dubreuil è tuo amico, bisogna che tu ti opponga. Senti, per quanto riguarda il giornale, non lo metterò mai al servizio di nessuno, né di Dubreuil né tuo. Bisognerà bene che un giorno o l'altro l'Espoir precisi il suo programma politico, disse Scriassin. No, non avrò mai un programma a priori. Ci tengo a dire ciò che penso, come lo penso, e non intendo lasciarmi irregimentare. È una cosa che non sta in piedi. S'udì all'improvviso la voce placida di Luc. Noi non vogliamo un programma politico, perché vogliamo salvare l'unità della resistenza. Henri si versò un altro bicchiere di whisky. Tutte sciocchezze, borbottò. Luc non sapeva dire altro. Lo spirito della resistenza, l'unità della resistenza. E Scriassin vedeva rosso quando sentiva parlare dell'Unione Sovietica. Avrebbero fatto meglio ad andarsene a delirare ciascuno per conto proprio. Vuotò il bicchiere. Lui, Henri, non aveva nessun bisogno di consigli. Su quel che deve essere un giornale, aveva le sue proprie idee. Un giorno, certo, l'Espoir avrebbe dovuto prendere partito anche politicamente, ma in tutta indipendenza. Le polemiche e le campagne partigiane erano finite. Bisognava approfittarne per formare i lettori invece di riempirgli la testa, non dettargli delle opinioni, ma insegnargli a giudicare da sé. La cosa non era semplice. Spesso i lettori esigevano delle risposte e non bisognava dargli un'impressione di ignoranza, di dubbio, di incoerenza. Ma questo, appunto, era l'impegno. Meritare la loro fiducia invece di rubargliela. E la prova che il metodo rendeva era che l'Espoir si vendeva un po' dappertutto. Inutile rimproverare ai comunisti il loro settarismo se si è dogmatici quanto loro, si disse Henri. Interruppe Scriassin che aveva ricominciato a perorare. Non credi che potremmo rimandare la discussione al mio ritorno? Parti. Un viaggio di informazione? No, di piacere. Ma non è una diserzione? Disse Scriassin. Una diserzione, disse Henri ridendo. Non sono mica soldato. Scriassin scosse la testa. Confesso che non ti capisco, disse allontanandosi. Hai proprio scandalizzato Scriassin, disse Vincent allegramente. Il fatto che voglio partire le scandalizza tutti, disse Henri, e Dubreuil per primo. È incredibile, disse Lambert. Tu hai fatto più di loro, no? Hai bene il diritto di prenderti una vacanza. Decisamente, si disse Henri, è con i giovani che mi intendo meglio. Thank you.